di Facebook è figo, è per questo che è successo. Sì. Non va rovinato con la pubblicità perché non è figa. Esatto. È come organizzare la festa più bella del campus e poi qualcuno dice che deve finire alle 11. È esattamente così. Voi ancora non sapete cos'è questa cosa. L'ho detto esattamente così. Quanto può crescere, fin dove può arrivare. È presto per incassare le fish. $1,000,000 non è figo, sai cos'è figo? Tu? $1,000,000,000. E questo chiuse a tutti la bocca. È lì che arriverete. $1,000,000,000, questo varrà la società. A meno che non vi consiglino male, allora tanto valeva aprire una bella catena di yogurterie. Levate il The, solo Facebook. È più pulito. Cazzo. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Poi la voce si sparse anche nelle altre quinte, le ordinazioni arrivarono a go-go e quindi riuscì a fare un bel gruzzoletto. In 448 raccolsi un mucchio di ordinazioni, per cui occorreva attrezzarsi. Detto fatto, progettai il tracopiatore. Storie di commerci scolastici e di social network in una puntata tutta dedicata al vizio dell'avarizia. Oggi è il 4 di febbraio e tra le miriadi di cose che sono successe in questo giorno negli anni passati, magari c'è qualcuno che compie gli anni là fuori, senza magari, per forza c'è qualcuno che compie gli anni là fuori che ci sta ascoltando e al quale facciamo gli auguri, e anche il compleanno di una cosa che voi conoscete molto bene, non tutti la conoscono perché alcuni la schifano, alcuni semplicemente la tengono lontana e altri invece magari ci sono davanti in questo momento preciso, magari mentre ascoltate avete il vostro smartphone aperto su quella pagina, o magari siete davanti al vostro schermo del computer e avete davanti Facebook. Oggi Facebook compie 16 anni, era quindi il 4 febbraio del 2004 quando quel signore che più o meno tutti conoscono, quantomeno per nome, che si chiama Mark Zuckerberg, inventava questa cosa, inventava questo social network. L'inizio della puntata, lo avete sentito, è una citazione tratta proprio dal film che si chiama The Social Network, che racconta la storia mai veramente sottoscritta da Zuckerberg. Però il film ricostruisce quella storia, che è una storia intricata, per cui appunto ci sono due tizi, due fratelli che sostengono che Zuckerberg abbia rubato loro l'idea, ma che sono stati ampiamente risarciti per questa per aver fatto causa a Zuckerberg e a tutta Facebook. Facebook è chiaramente andato avanti e si è mangiato altri social, se li è comprati, adesso insomma le opinioni sono più o meno altalenanti sul ha ancora senso, non ha più senso, è solo per persone di una certa età, e più tardi ne parleremo con una persona che ne sa parecchie a riguardo di internet e di social network. Ma non è questo che a noi interessa, noi raccontiamo delle storie e quindi oggi sfruttiamo questo appuntamento, semplicemente il fatto che sia, se vogliamo, l'anniversario o il compleanno della nascita di questo social network, per provare in una puntata dedicata all'avarizia a raccontarvi una storia che va da, come sempre, parte da lì ma va da un'altra parte, cioè come qualcuno ha utilizzato questo social network per essere, diciamo, meno avaro da un punto di vista dei rapporti umani, perché il tema dei social network degli ultimi anni è la bolla, crearsi una bolla intorno a noi per cui siamo convinti che tutto il mondo ci somigli più di quanto in realtà ci possa somigliare. Il mondo non ci somiglia, lo sappiamo bene, però le persone che si creano, ci creiamo intorno grazie agli algoritmi, grazie al fatto che seguiamo solo chi preferiamo seguire, che guardiamo solo chi ci interessa e chi fortifica le nostre idee su noi stessi e sul mondo, allora fa sì che intorno a noi ci sia qualcosa che sembra essere noi stessi. Non è così, e c'è un tizio, e vi racconteremo la sua storia, che grazie a Facebook, utilizzando in un modo, diciamo, alternativo Facebook, ha trovato il modo per uscire da quello stato e da quella condizione. Ma la prima storia che vi raccontiamo, avete sentito la sua voce, è la storia di Virgilio, che in questa puntata, che è dedicata all'avarizia, ci racconta come in qualche modo l'avarizia di suo padre, quando lui era un ragazzino, abbia aguzzato e di molto il suo ingegno. Quindi cominciamo, benvenuti a Linee d'Ombra. Siamo all'inizio degli anni 60, pieno boom economico. Io frequentavo il primo anno dell'Istituto Tecnico per Geometri. Frequentavo una compagnia di coetanei che in quel periodo si dava appuntamento alla domenica per le prime uscite da soli. E se capitava magari, con qualche ragazzina. Dico magari perché le nostre conoscenze dal lato femminile erano molto scarse. Comunque, dopo aver valutato diversi programmi per la giornata, si finiva per andare tutti quanti al cinema. E qui cominciavano le dolenti note, perché la paghetta che mio padre mi passava era sempre insufficiente per coprire la spesa. Infatti mio papà, che aveva subito le ristrettezze del tempo di guerra, era rimasto molto sensibile al valore del denaro, o, come si direbbe oggi, aveva un po' il braccino corto. La sua non era una vera e propria avarizia, ma essendo ben consapevole dei sacrifici, come diceva lui, per guadagnarsi la pagnotta, riteneva opportuno che anch'io apprendessi il valore dei soldi e comprendessi che nella vita nulla ci viene regalato e ogni cosa va conquistata. Il problema però non erano questi sani principi, quanto il fatto che, per aderire a questi principi, se il cinema costava 300 lire, lui me ne dava solo 250. Occorreva quindi fare di necessità virtù e aguzzare l'ingegno per fare quadrare il bilancio. Avevo notato che nella mia classe, avendo una prof di disegno molto buona, molto materna, i miei compagni la prendevano sotto gamba e le tavole che ci assegnava come compiti a casa non le faceva quasi nessuno. Capitò però il giorno in cui fece malauguratamente una verifica in classe e il bubbone venne allo scoperto, per cui, benevolmente ma con fermezza, chiese di recuperare quanto non avessimo fatto. Quale migliore occasione mi si presentava per integrare la mia paghetta? Infatti feci passaparola con i miei compagni, offrendomi di disegnare per conto loro le tavole mancanti per una modica spesa rapportata però alla complessità del disegno. In 448 raccolsi un mucchio di ordinazioni, per cui occorreva attrezzarsi per un'attività più sistematica e meno dispendiosa. Detto fatto, progettai il tracopiatore. Dovevo riprodurre delle tavole per i miei compagni di classe e quindi ho preso l'idea un po' dal mio medico, quando metteva le radiografie su quel vetro illuminato, no? Ho detto, ma perché non potrei fare anch'io così? E allora mi costruì questo apparecchio, cioè questo mobiletto di legno con i due vetri e le lampadine sotto, in maniera che io potevo appoggiare il mio disegno, appoggiavo foglio pulito sopra e tracopiavo, quindi era molto, molto semplice, molto comodo. Con quattro assicelle preparai un mobiletto leggermente inclinato in avanti e dotato di due vetri sovrapposti ma distanti un paio di centimetri l'uno dall'altro, per creare una camera d'aria in modo che le due lampadine sottostanti non scaldassero troppo la superficie di lavoro. Il vetro inferiore era trasparente, quello superiore era bianco latte. Il tutto mi era costato un investimento di 50 lire, che vennero però presto ammortizzate visto che gli affari andavano a gonfie vele. Ma, come al solito, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, per cui verso la fine dell'anno successe il guaio. Avevo disegnato una tavola con proiezione ortogonale di due solidi che si intersecavano, ma commisi l'errore di tratteggiare una linea che invece doveva essere continua. Fu così che circa una ventina di tavole presentavano esattamente il medesimo errore. Poiché i disegni erano già stati consegnati e non potevo più recuperare, decisi di giocare d'anticipo e, fidando sulla benevolenza della prof, la presi in disparte e le confessai tutto, ovviamente sottolineando in modo colorito le mie motivazioni economiche che stavano a monte di tutta l'operazione. La mia fiducia in quella cara donna era stata ben riposta, perché invece di appiopparmi la punizione che mi sarei meritato, lodò maternamente la mia iniziativa, ma mi pregò di sospendere l'attività in quanto si era accorta che i disegni erano fatti tutti dalla stessa mano ed era stata messa in grande difficoltà nella valutazione per l'effettiva preparazione dei miei compagni. No way to serve, there ain't no way to serve. Sempre per i consueti problemi economici che mi assillavano, nelle vacanze io andavo in un fotolaboratorio per guadagnarmi un gruzzoletto da spendere nel mese di agosto al mare. Fu così che questa attività mi consentì di inventarmi il secondo business del mio periodo studentesco. Eravamo in quinta, ci preparavamo ad affrontare l'esame di maturità che ci avrebbe consacrati geometri. Fervevano i preparativi dei foglietti con le formule di topografia, le stime per estimo e ogni altra sorta di promemoria da tenere a portata di mano durante gli iscritti. Il problema era quello di rendere leggibili i foglietti di piccole dimensioni, i quali però dovevano contenere il maggior numero di nozioni ed indicazioni. Basandomi sulla mia precedente esperienza fotografica, io mi ero dattilo scritto tutto quanto, con la macchina da scrivere, tutto quello che la macchina consentiva, mentre i formulari li avevo trascritti in stampatello molto chiaro. Preparati così gli originali su dei comuni fogli A4, mi recai dagli amici del fotolaboratorio che, con vero spirito di collaborazione, provvidero a fotografare e a stampare in formato 7x10 tutto quanto avevo realizzato. Minuscolo. Il risultato era eccellente, tanto che in ogni singola fotografia si poteva leggere nitidamente ed agevolmente la traccia di un'intera stima o formulari molto complessi. L'economia era scarsa e quindi bisognava integrarla in qualche modo. Però, sai, le idee vengono poi per stato di necessità, necessità fa virtù, no? Come dal punto di vista economico è stato un successo, perché come le feci vedere in classe cosa mi ero preparato, tutti gli amici, non puoi farlo anche a me, e quindi feci cadere la cosa un po' dall'altro e oltre al, diciamo, al puro costo dello sviluppo delle fotografie eccetera, della stampa, aggiunsi anche un buon margine per me. Quando feci vedere in classe quanto mi ero preparato, scoppiò l'apoteosi. Ci fu un velocissimo passaparola tra i ragazzi delle 5 sezioni che di lì a poco avrebbero affrontato l'esame di Stato e in un batter d'occhio fui sommerso di richieste. Stabilito un congruo prezzo che avrebbe remunerato anche i miei amici fotografi, coperto le spese vive e garantito un giusto guadagno utilizzando i negativi fornia più di 150 diplomandi, i preziosi pizzini. La morale che ho tratto da queste mie prime esperienze di vita, con il senno di adesso, è stata che la piccola avarizia di mio padre non mi ha affatto nociuto. Al contrario, mi ha preparato a ricercare e sfruttare le soluzioni più appropriate per ogni evenienza, e anche ora, che ho perso la vista, uso con profitto questo mio modo di pormi per rendere il presente quasi come prima. questa è Linea d'Ombra, lei è Nina Simone ovviamente. Le storie che vi raccontiamo oggi sono storie che hanno a che fare con il vizio dell'avarizia, anche se, come ci ha raccontato Virgilio, in parte quella, se vogliamo, piccola avarizia del padre un pochettino l'ha aiutato. Pronto, ciao Virgilio, buongiorno. Ciao, ciao Matteo. Virgilio, quanti anni fa accadeva tutta questa storia? O meglio, questo negli anni 60, quando avevo 14 anni, quindi praticamente in prima geometri. Senti, e poi la seconda, diciamo, quella, le fotografie 5 anni dopo. Senti, lì fammi capire, erano delle vere e proprie stampe fotografiche quelle che tu hai fatto? Quelle che ho fatto per l'esame di Stato, sì, erano proprio stampe fotografiche dove avevo riprodotto tutte le stime in maniera che si potessero leggere. Quindi i pizzini erano delle microfotografie? Delle fotografie 7-10. E l'hai date a 150 persone? Eh sì, perché la voce si era sparsa. Certo. Come tirarsi indietro, chiaramente. Ti ricordi a quanto l'hai venduta ciascuna? No, eh. Ma guarda, se ricordo, penso che fossero sulle 200-250 lire ciascuna, che allora era, mi saranno costate a me 70-80 lire. Quindi scusami, 200, se fai 200 lire ciascuna per 150 sono 20.000. Adesso, no, 2.000... Sono 3.000 lire. 3.000, sì, 3.000. Sono 3.000 lire. Cioè, due estati ci hai fatto, non una. Sì, effettivamente. Virgilio, poi hai fatto il geometra? Sì, poi ho fatto il geometra, diciamo, inizialmente. Dopodiché sono entrato in una compagnia di assicurazioni e ho fatto tutta la mia carriera come assicuratore all'interno. Quando hai detto compagnia, credevo, non so perché, una compagnia teatrale, dicevo, da geometra ad attore il passo è brevissimo. No, compagnia d'assicurazione. Senti, tu in chiusura, io mi ricordo, noi ci siamo già sentiti, tu ci hai già mandato una storia, sì, credo in apertura, sì, di stagione, quindi ci avevamo già parlati. Tu chiudi, sì, la storia dicendo appunto questa, come dire, essere in grado di fare di necessità virtù mi ha aiutato anche adesso che ho perso la vista. Non ricordo più o meno da quanto tempo hai perso la vista esattamente, Virginia? Nel 2011, praticamente sono 9 anni. Quindi tu hai, perdonami, un 65, quanti anni hai? Ne ho 73 adesso. Ne hai 73, quindi sì, di fatto insomma, una parte abbastanza importante della tua vita. Sì, in effetti è stato quello che, diciamo, il mio carattere mi ha aiutato, perché diciamo, nel momento in cui sono passato dalla luce al buio ho reagito immediatamente. E anche qui ho applicato, diciamo, il proverbio necessità fa virtù, perché bisogna continuare a vivere e continuare, ed è diventata tutta una sfida, quindi anche in questi giorni sono contentissimo, perché sono riuscito a tornare a programmare e a fare il programmatore, scrivere delle righe di programma per programmare Excel, quindi. E in che modo? In che modo? Praticamente, Virgilio, come hai fatto? Io uso il computer con una sintesi vocale, okay, la quale praticamente mi dice tutto quello che compare sullo schermo, e dalla tastiera praticamente io uso tutti i comandi, per cui posso scrivere, passare sui menu, diciamo entrare, diciamo, nei vari fogli. Sì, sì, sì, chiarissimo, no? Chiarissimo. Ma, sì, sì, sì. Virgilio, ad esempio, di tutte le cose che sei tornato a fare da quando non hai più la vista, qual è la cosa di cui sei più orgoglioso? Ma guarda, non ce n'è una in particolare. Direi che tutte, perché tutte mi hanno dato la soddisfazione di essere tornato a fare, aggirando gli ostacoli come prima, quindi sono riuscito a cambiare la cinghia di una tapparella, io ero un buon bricolore, come ti dicevo, quindi sono riuscito a ripararmi un frullino che era andato in corto, ci vuole un occhio anche di mia moglie, che mi deve dire per esempio i colori dei cavi, però il tatto si è sviluppato, direi, tantissimo, per cui riesco con i polpastrelli individuare parecchie cose, certo, a sentire. Senti, non c'è mai stato un periodo più che di sconforto, un periodo di rabbia proprio per quello che per questa cosa? Di rabbia no, di sconforto la prima notte, perché dopo che mi hanno operato, sono rimasto praticamente non percepivo la possibilità di poter continuare a fare le cose che facevo prima. Quindi ed è durato solo una notte. Solo una notte, sì, perché il giorno dopo ho detto: bene, adesso si deve continuare, si va avanti e si riprende. Cioè, non, per me non esiste diciamo un ostacolo, bisogna superare gli ostacoli. Quindi ci metti, se usi la testa, quella ti deve aiutare per andare avanti. Quindi non bisogna mai fermarsi. Virgilio, ti ringrazio per le storie che ci mandi e anche per queste piccole lezioni che ci dai ogni volta. In bocca al lupo per tutto, a presto, siamo qua. Grazie. Quando vuoi. Ciao, sì, buona giornata. Ciao Matteo. Johnny wanna be a big star, get on stage and play the guitar, make a little money by a fancy car, a big old house and an alligator, just to match with them alligator shoes. He's a rich man, so he's no longer singing the blues. He's singing songs about material things and platinum rings and watches that go bling, but diamonds don't blink in the dark. He a star now, but he ain't singing it from the heart. Sooner or later, it's just gonna fall apart, 'cause his fans can't relate to his newfound art. He ain't doing what he did from the start, and that's putting in some feeling and thought. He decided to live his life shallow, cash in his love for material, and it's gone. Gone, going, gone, everything gone, give a damn. Gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people, awkward with their things gone. Yourself in the mirror, ain't ya? Feel safe 'cause it looks familiar, but ya afraid to open up your soul 'cause ya don't really know who is the person that's deep within, 'cause you content with just being the name brand man, ain't ya? Felt to see that it's trivial, insignificant, you addicted to material. Ringrazio l'ascoltatore che al 349-238-6666 mi scrive che il conto di prima è sbagliato. 200 lire per 150 persone non fa 3.000 ma fa 30.000 lire. Per cui grazie mille per la correzione. Lasciamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Avarizia, oggi avarizia, ma anche una giornata particolare perché è il 4 di febbraio e ricorre, come diciamo in apertura, il compleanno di Facebook, che è un social network. Qualcuno mi scrive al 349-238-6666, più che un social network è un'arma di distruzione di massa. E a proposito di questa mini ricorrenza e di questo messaggio che lo definisce appunto un'arma di distruzione, noi vogliamo raccontarvi una storia, una piccola storia, un piccolo lato che riguarda la storia di Facebook, che è ovviamente una storia enorme, non solo perché è la sua, ma perché è diventata anche la nostra, di milioni di persone che lo utilizzano tutti i giorni. Questa è solo una storia che racconta qualcosa di più, o quantomeno appunto un angolo, ed è la storia di Max Hawkins. Max Hawkins è un ragazzo che ha trovato un modo diverso per usare Facebook e che lui sostiene l'abbia reso una persona migliore, o quantomeno meno avara di sentimenti. State con noi. Max vive a San Francisco, ama pressoché tutto di quella città: il clima, il cibo, la gente che incontra e il suo lavoro, che ha a che fare con la new economy, il web, i social media. Per qualche anno frequenta solo persone della sua cerchia di amici, di colleghi, ci sta bene, si diverte e soprattutto, come ognuno di noi sa molto bene, frequentare sempre le stesse persone, quelle che conosciamo, che ci conoscono, conferma chi siamo noi e conferma quello che pensiamo del mondo. Max lavora per Google. Ogni giorno quindi si prende il suo bel caffè gratis nell'enorme open space di Mountain View, in California, in mezzo a centinaia di persone che gli somigliano. Poi, per pranzo, alla mensa di Google, che è rinomata per l'ottima qualità del cibo, cosa non così facile da trovare negli Stati Uniti. Insomma, Max è felice, sta bene ed è circondato da persone interessanti e amichevoli. Un giorno però Max viene colpito da un pensiero, è come un piccolo meteorite. È il pensiero che la vita rischia di entrare in un loop di abitudini che ci impediscono di esplorare meglio il mondo intorno a noi e anche noi stessi. Insomma, viviamo come in quella famosa bolla di cui si parla, in cui tutto ci è noto e conosciuto e le persone dentro alla bolla ci sono sempre più vicine, mentre quelle fuori diventano sempre più lontane. Insomma, Max vuole uscire dalla sua bolla e si ricorda che Facebook ha una app. È un'app che è molto poco utilizzata, si chiama Graph Search. non è nulla di che, è un'app che semplicemente mappa gli eventi, che ovviamente qualcuno ha caricato su Facebook, che si svolgeranno quella sera nella zona vicino a casa nostra. Probabilmente molti di noi non avrebbero pensato a questa app come soluzione al problema o al proprio desiderio di uscire da questa bolla di persone e luoghi che conosciamo, ma Max è un ingegnere che lavora per Google e quindi cerca soluzioni a problemi. E la soluzione al suo problema è questa qua. Max si crea una propria applicazione personale per il suo smartphone che usa Graph Search di Facebook per scegliere a caso tra tutti gli eventi presenti in tutta la città. E la cosa interessante di questa app è che non fa alcun tipo di discriminazione. E quindi è pronta a mandarlo ad una festa di rivoluzionari, così come ad un raduno conservatore di proprietari di armi. E la vita di Max è pronta ad uscire dalla bolla. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you'd like making love at midnight in the dunes on the Cape, my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Il primo posto verso cui la sua app lo indirizza è un enorme appartamento nella zona del lungomare. Max parte da casa sua, dall'altra parte di San Francisco, suona al citofono e quando gli chiedono chi è, lui risponde: sono Max. Gli aprono la porta, sale alla festa. Si trova davanti 7 ragazze russe che lo guardano stranite. Loro avevano capito Matt, non Max, e Matt è un amico che effettivamente stanno aspettando. Max però spiega loro come c'è finito lì, hackerando un'app di Facebook che segnala eventi postati sui social network. Le ragazze sono molto divertite e lo invitano a rimanere. Passano la serata insieme, la finiscono completamente ubriachi. Da questo momento Max comincia ad utilizzare senza ritegno la sua app, che sceglie random le feste e lo manda ad ogni tipo di situazione: feste all'oratorio, colazioni di gruppo, open house, serate di danza, yoga. A questo punto a Max diventa chiarissimo come la nostra vita, quella di noi occidentali, perlomeno per capirci, sia organizzata intorno alle nostre preferenze, o supposte preferenze. Cosa vuoi mangiare? Dove vuoi andare? Chi ami? In quali politici credi? La domanda «cosa preferisci?» è la domanda su cui si basa la nostra cultura e che siamo spinti continuamente a farci. Max invece, grazie a questo piccolo trucco, si trova a frequentare luoghi e persone che non avrebbe mai immaginato di incontrare prima. Abbandonando l'algoritmo che ormai guida gran parte delle nostre vite, ha la sensazione, finalmente, di conoscere un po' di più il mondo. Passano i mesi e arriva Natale. Invece che tornare a casa dai genitori e dai parenti, Max decide di rimanere in città e, insieme a 2 amici, usa proprio la sua app anche per il pranzo di Natale. L'app decide per loro, come sempre casualmente. Trovano una sorta di reunion familiare a Fresno, a 3 ore d'auto da San Francisco. Comprano una torta, fanno il pieno di benzina e partono. Quando suonano alla porta, Max confessa di essere terrorizzato. Chi saranno queste persone? Che cavolo ho deciso di passare il Natale? Come? Perché? Con chi? Alla porta appare una donna, attorno ai 50. Lei e il marito stanno aspettando altri amici e avevano creato quel mini evento su Facebook. Max allora le racconta tutto, dell'app, del suo desiderio di conoscere nuove persone. La donna è entusiasta, li fa entrare. Pranzano insieme, i tre amici e la coppia di mezza età. Poi, nel pomeriggio, arrivano una decina di amici e la festa continua fino a sera. C'è un video di quel giorno. C'è un gruppo di persone in un salotto che canta canzoni natalizie. Max è in piedi dietro ad una signora a sovrappeso, con i capelli corti neri. Su una poltrona di fronte a lei c'è il marito, che suona una chitarra. Altre persone intorno si tengono per mano. Non si erano mai visti prima, ma tutti cantano, qualcuno accenna un passo di danza e sembrano felici. Questa è una di quelle storie che troviamo su quel podcast meraviglioso che si chiama Invisibilia, che nasce dalla trasmissione This American Live, di cui vi parliamo spesso e da cui prendiamo tantissime storie. Parliamo di NPR, radio americana e podcast americana. Si chiama Invisibilia questo, e da lì abbiamo tratto questa storia su Facebook. Ma tra pochissimo continuiamo, dopo le strade in diretta, a parlare di Facebook. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare «anche io ho vissuto una cosa simile»? Anch'io ho una storia da raccontare. Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei sette antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E visto che oggi Facebook, come abbiamo detto in apertura, se non l'avete capito, se già non lo sapevate, compie 16 anni, noi ci siamo detti dovremmo parlare con qualcuno che ne sa veramente. Come sapete, di solito lo facciamo al telefono, ma per quale motivo non scomodare l'uomo che ne sa forse più di tutti su Facebook, sui social network, sull'internet in generale, che sta seduto un piano, due piani qua sopra, quanti piani? Due piani. Due piani qua sopra, che, se vogliamo anche dirlo, è l'uomo al quale io ho rubicchiato un po' di spazio radio nel 2010, e lui è responsabile di tecnologia online per il Sole 24 Ore ed è Luca Tremolada. Luca, grazie mille per essere qua. Grazie a te, dillo forte e chiaro, sei stato un ladro, mi hai dato prima, una sederata solo, e mi hai spostato. Però prima era solo mezz'ora, se non ricordo male, no? Quando abbiamo cominciato con Vendo Tutto era solo una mezz'oretta, poi tu ti sei... Poi in 45 minuti, poi era un minuto praticamente, dicevo ciao a Matteo e ma siamo via. Qui per parlare d'altro, per parlare del fatto di quanto Facebook ci abbia rovinato la vita, Luca. No, a noi, perché noi siamo vecchi, cioè diciamolo nel senso banalmente. Nel senso che non lo usano. Noi ragazzi non lo usano più. E questo lo sappiamo. Gli over 40 è una questione che riguarda gli over 40 ormai. Quindi è già quasi noiosa. No, non è noiosa perché poi noi ci troviamo anche tanti motivi divertenti. Di fatto ha condizionato le nostre vite, nel senso che Facebook è una delle metafore più interessanti per capire i danni che ha fatto non tanto la digitalizzazione quanto l'uso dei dati non in maniera super corretta. Quindi parliamo di quello, qual è il problema vero? Cioè il fatto che sappiano tutto e come trovarci e dove trovarci. Il problema vero è che noi ci divertiamo moltissimo a schiacciare mi piace. Il problema vero è che schiacciando mi piace abbiamo capito con un po' tanto di ritardo che quelle informazioni vengono utilizzate e rivendute ad altri. E abbiamo messo tanto tempo a capire che insomma il fatto della famosa pubblicità profilata e tutto quanto, il fatto di poter avere su Facebook, non so te o io ho sempre videogiochi come pubblicità che mi arrivano, certo. Poi hanno altre cose, però insomma il fatto di avere un servizio gratuito, un grande luogo dove poter condividere e incontrare gli amici, che sono tutte cose che vanno benissimo e sono anche gratis, di fatto hanno un prezzo. Il prezzo è che tu sei un prodotto, come raccontava il famoso film, sei un prodotto perché le tue informazioni vengono prese, profilate, targetizzate e vendute sul mercato. Quindi alla domanda di quelli che potrebbero dire ma che problema c'è se sanno qualcosa di me, come rispondiamo? Rispondiamo al fatto che sul fatto singolo non c'è nessun problema, sul fatto globale insomma significa che le offerte commerciali ma anche le mie idee politiche ma anche insomma quello che penso e che credo viene in qualche modo premasticato e andato sul mercato senza che io ne abbia alcun controllo. Cambridge Analytica è stato il grande scandalo che ha colpito Facebook, è stato esattamente questo. Io non avevo il controllo delle informazioni, o quantomeno non sapevo che il mio giocare a un piccolo videogioco su Facebook avrebbe alimentato dei social network che in qualche modo potevano utilizzare quei dati per un altro valore. È uno scambio, ma noi dobbiamo imparare che sui social network è tutto uno scambio. L'importante è essere consapevoli. Io sono abbastanza laico, te lo dico banalmente, non esistono, non sei millenarista, no. Non esistono i geni del male, cioè, anche la privacy è negoziabile. Io posso decidere di concedere tutti i miei dati, le mie informazioni, la mia vita in cambio di notorietà, successo, servizi gratis, però devo essere consapevole che sta succedendo quello. Quando tu stai usando le mie informazioni e non capisco perché o non me lo dici, allora mi sento un po' preso in giro. È più un problema. Senti, invece, prima di chiudere, l'azienda Facebook compie 16 anni, in che condizioni di salute è? Come sta? Allora, la cosa divertente è che nonostante tutti gli scandali stanno benissimo finanziariamente, per cui vuol dire che anche il fatto che noi giornalisti li critichiamo, i guru si offendono quando sentono parlare di Facebook, gli utenti usano la piattaforma, la usano tantissimo e sono macchine da soldi. Quanti utenti ci sono ad oggi, grosso modo? Sono più di un miliardo e tra l'altro la grande partita di Zuckerberg è quella di conquistare il terzo mondo, per cui insomma di entrare negli smartphone, di riuscire a prendere i luoghi non tra virgolette ricchi, e un po' ci sta riuscendo. Ad oggi hanno Facebook, WhatsApp, Instagram, giusto? Esatto. E questo è un problema di antitrust, nel senso che voi sapete che si stanno decidendo delle regole comuni, non puoi avere così tante cose, anche perché se i dati di Facebook entrano in WhatsApp ed entrano in Instagram, io comincio ad avere un profilo molto preciso di chi sei tu. Luca, e poi chiudiamo in una puntata dedicata all'avarizia. Noi ce la sentiamo di dire che Mark Zuckerberg è un avaro? Ma no, secondo me loro sono californiani, loro sono hippie nel loro modo di fare. Cioè, va un po' capito. L'ho visto capitale, essere californiani. Sì, ma anche perché io l'ho visto da lontano, cioè è simpatico, è molto nerd, nel senso certo, che è infradito, certo. È quel mondo lì, però vivono una dimensione di condivisione che è molto diversa da chi come noi è novecentesco. Ti do anche te, anche se sei molto più giovane di me. Vabbè, sono del 75. Anche per vendicarmi un Aspettiamo pochino. La storia di Vizi Capitali di Luca Tremolada qui a Linee d'Ombra e grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a te. Accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. Time, the aspects that you pass on while traveling. When you're lonely, press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here. press play. Can I get any closer? What only dog can I bring to you when I'm lonely? I press play. 'Cause you're not resolved in your heart, you're waiting for me to improve. Esattamente il 15 dicembre del 1976, Sergio Bazzega entrava in una casa di Sesto San Giovanni, accompagnato dal vicequestore che si chiama Padovani, e veniva freddato di fatto da colpi d'arma da fuoco di un giovane brigatista rosso che loro dovevano arrestare. Il maresciallo Bazzega aveva un figlio a quell'epoca, aveva poco più di un anno o due anni, insomma era veramente piccolo. Quel figlio si chiama Giorgio Bazzega. Giorgio oggi è un uomo di più di 40 anni che ha covato, proprio per via di quella giornata, per via dell'uccisione del padre, una forma di ira molto molto profonda. Noi in questo pezzo di Linee d'Ombra, nel pezzo finale, poco prima di dare la linea al GR e poi al Bon Musumeci, noi vi raccontiamo delle storie seriali che hanno a che fare con uno dei vizi capitali, e vi stiamo raccontando quello dell'ira. Lo stiamo facendo grazie alla storia di Sergio Bazzega, il figlio di Sergio. E Giorgio ci sta raccontando, tramite la voce e le parole di Mauro Pescio, davvero una storia letteralmente a cuore aperto, e noi lo ringraziamo moltissimo per quello che sta facendo. In questo episodio Giorgio affronta un argomento molto delicato, che è l'essere e sentirsi una vittima. Il fatto che essere una vittima non significa avere, e queste sono parole sue, parole di una persona che gli è stata vicino e ce lo racconta molto bene, non significa avere il monopolio del dolore, e capirlo, anche e soprattutto quando sei una vittima, non è per niente facile. Ci ho impiegato parecchi anni a capire che quell'associazione non faceva per me. Intanto andavo nelle scuole e in qualsiasi posto mi invitassero a dire a tutti che non esistono ex assassini, che l'unico ergastolo lo viviamo noi, familiari delle vittime, e che gli ex della lotta armata, oltre a scontare la pena, dovrebbero anche stare zitti e morire socialmente per il resto dei loro giorni. Stavo dicendo tutte quelle robe che, se ci penso adesso, alla luce del percorso che ho fatto, della consapevolezza che ho e delle battaglie che faccio, perché adesso di battaglie in questo senso ne faccio, mi si accappona la pelle a pensare ai danni che ho fatto. Cioè, io ho fatto più danni della grandine in quel periodo ai ragazzi a cui andavo a raccontare queste cose, perché gli raccontavo una storia proprio di divisione, di rancore, cioè seminavo i semi del rancore proprio, ed era una roba bruttissima, tremenda. Ma ancora peggio che quando io ero così, solo una persona ha avuto il coraggio di dirmi e mi ha detto in faccia: guarda Giorgio, capisco cosa, ma non hai il monopolio del dolore, c'è anche altra gente che soffre. Questa persona era il mio capo, Marcello Picasso, che nei momenti più bui mi aveva anche offerto un letto a casa sua per cercare di aiutarmi. Marcello, dicendomi che non avevo il monopolio del dolore, insieme a quello che mi aveva detto mia mamma di mio padre, è come se mi avesse dato i semi per fare germogliare questo mio nuovo cambiamento profondo. È stato l'unico ad avere il coraggio di dirmi in faccia le parole di cui avevo davvero bisogno. Lo sbaglio che si fa sempre con le vittime è quello di avere un approccio accondiscendente, giustificando e creando degli alibi per degli odi bestiali. E invece bisogna avere il coraggio e la forza di riuscire a fare loro capire che non è quella la strada. Nell'associazione delle vittime per il terrorismo c'era un po' la tendenza a raccontare che erano tutti brutti e cattivi. Raccontare le cose come sono andate, secondo me, è il modo migliore per fare memoria. E dire che erano tutti brutti, cattivi terroristi, che dire terrorismo, e sembra butti tutti in un calderone che fa sembrare la cosa peggiore del mondo e ti cancella tutto quello, cioè che non è che ti cancella robe che devi andare a salvare, ma una persona mediamente intelligente un fatto storico deve analizzarlo, deve guardarlo nella sua interezza. Non puoi buttare tutto in un calderone perché spaventa, perché parli alla pancia della gente e perché poi ti fa tornare un po' il tuo tornaconto. Ma nonostante i conflitti e le contraddizioni evidenti, è stato grazie all'attività con l'associazione che a un certo punto sono stato invitato ad un convegno a Cortina, e lì ho incontrato la persona che è stata la vera, definitiva svolta della mia vita. E grazie davvero ancora a Giorgio Bazzega che ci sta raccontando la sua storia. Continuate ad ascoltarla se avete voglia ogni giorno qui a Linee d'Ombra nella parte finale del programma, oppure in podcast tramite la nostra app, l'app di Radio24, o ovunque andiate a recuperare il vostro podcast, oppure sul nostro sito radio24.it, la pagina di Linee d'Ombra, dove trovate tra l'altro, oltre che sul nostro profilo Facebook e sul nostro profilo Twitter, se avete voglia di seguire gli aggiornamenti, trovate anche ad esempio le musiche che il nostro Luca Micheli sceglie per ogni puntata. Linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!